giallo e nero. Tra i misteri della cronaca con Daniele Biacchessi. Napoli mille colore. Napoli mille paure. Napoli a voce re creatura. Cassaia chiano chiana. E tu sai che non si sola. Quartieri spagnoli, Vomero, Sanità, Secondigliano. Si snodono lungo questi percorsi gli affari dei nuovi boss della camorra napoletana. Droga, contrabbando, armi, usura, traffico di esseri umani. Ma tutto è più difficile da decifrare perché rispetto al passato a Napoli non comanda nessuno e ogni membro dei clan scalpita per assumere oggi il controllo della città. Napoli, nel centro di Napoli c'è una sorta di riposizionamento di vari gruppi camorristici, una sorta di tutto contro tutti, anche perché il vecchio equilibrio che c'era prima è tramontato. Napoli è una carta sporca. E nessuna sarà morta e ognuna aspetta sorta. Tutti contro tutti. E la fotografia della camorra napoletana scattata dal pubblico ministero della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, Raffaele Marino. Lui indaga su due omicidi che ancora oggi solo a raccontarli mettono rabbia. 28 marzo 2004, quartiere popolare di Forcella. Salvatore Giuliano, boss in carriera, subisce un attentato. E lui si fa scudo con il corpo di Annalisa Durante, 14 anni, che viene uccisa. Napoli è sconvolta, incredula, ferita nella sua stessa anima. 16 ottobre 2004, Salvatore Albino viene raggiunto dai sicari tra i quartieri spagnoli e il Vomero e accusato di aver rubato uno scooter a chi è più potente di lui. Due omicidi, solo due, rispetto ai 234 avvenuti tra il 1999 e il 2003. Una cifra mai raggiunta in Italia. A Napoli si ha paura di un nome che tutti conoscono da tempo, la camorra. Sentiamo Marcello Vino Nuovo. La parola camorra, origine nell'Ottocento, proviene dal gioco popolare della morra. Il camorrista è come l'arbitro di questo gioco, controlla i traffici, l'economia, gestisce l'ordine della sua zona. Il capo di un quartiere è chiamato O Guappo. Nella Napoli del secondo dopoguerra, la camorra è ancora un affare di guapparia. La città è distrutta dai bombardamenti, ma il mercato rinasce ed è in prevalenza di contrabbando. Con gli americani arrivano le sigarette e la richiesta sale a tal punto che la produzione locale non basta. Bisogna ricorrere all'importazione. A Napoli arrivano malavitosi da tutta Italia e non solo. Siciliani, genovesi, corsi e marsigliesi fanno affari d'oro con il traffico delle bionde e prendono contatto con la malavita locale. Iniziano le prime lotte per il potere. Tra il 1954 e il 1961 vengono commessi 61 omicidi. Nascono le prime alleanze, le spartizioni del territorio. Sarà Cosa Nostra la più brava a mettere radici in campagna, aiutata anche dai soggiorni obbligati di alcuni boss storici delle famiglie Bontade, Rina e Bagarella. Io mi chiamo Pasquale Gaffiero e sono brigadiero del carcere Oimè. Io mi chiamo Gaffiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. La camorra non è ancora strutturata come altre organizzazioni criminali tipo Cosa Nostra. Nei quartieri comandano ancora i guappi. Ma qualcosa si trasforma con l'ascesa in campo di Raffaele Cutolo. Lui teorizza quello che poi verrà definito il sistema. In carcere chiamato professore, promette alla malavita locale di diventare protagonista e fonda la nuova camorra organizzata, NCO. Carlo Alemi oggi è presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere e tra il 1985 e il 1987 ha interrogato più volte Raffaele Cutolo. Cutolo riesce a prendere il controllo a delle carceri in Italia. Per quanto riguarda invece la nuova camorra organizzata, Cutolo è riuscito ad organizzarla in un modo tale nel quale figurava un po' anche come il Robin Hood. C'era questa assistenza organizzata anche ai familiari dei detenuti, ai familiari malati. Cutolo veniva visto come un uomo che era comunque una sicurezza e un punto di riferimento. Che ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che chi li stipendi è un ambo se segna papà. Raffaele Cutolo si ispira ai rituali della camorra ottocentesca, organizza riunioni nel carcere di Poggio Reale, affilia gruppi di malavitosi dando loro uno stipendio fisso.